Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti al 20° numero di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. Dopo i prematuri entusiasmi e le rapide disillusioni della prima ondata della web economy, oggi, giustamente, chi avrebbe i soldi per finanziare un'idea candidata a cambiare il mondo ci va molto più coi piedi di piombo. Eppure proprio adesso il web sembra davvero poter costituire una straordinaria piattaforma per la giovane imprenditoria. Nello scenario italiano, tra Startup Weekend, Working Capital, raduni più o meno autoconvocati di sviluppatori e piccoli tycoon, non è facile districarsi per dimensionare correttamente l'opportunità sia per i singoli individui sia per, un bel respiro, il sistema paese. Ci proviamo tra pochissimo. Oggi abbiamo sentito le storie dei ragazzi che l'anno scorso hanno partecipato a Working Capital, prima azione di innovazione. Ma di fatto che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso due strepitosi progetti. Uno, l'avete sentito, è Working Capital, è andato per 2 anni alla ricerca dei talenti del web. E l'altro, fantastico, si chiama Premio Nazionale di Innovazione. Fanno le start-up in tutte le università italiane e vengono fuori dei progetti meravigliosi. Alcuni tra l'altro li trovate anche esposti in questa mostra, trovate un progetto bellissimo nell'area della salute fatto dai fratelli Prodam, che un caschetto che interpreta quello che uno sta pensando. Sono dei progetti fantastici. Li abbiamo uniti, le università, Telecom Italia, e insieme tanti partner sopra, che hanno consentito di costruire non solo una vera gara, non solo un percorso che riguarda tutte le categorie, non più soltanto il web, non più soltanto l'ingegneria, ma tutte le categorie: bio, nano, clean, green, web ICT, social innovation. Poi le tradurremo in italiano naturalmente al momento giusto, perché siamo in Italia 150 e parlare inglese soltanto non ha senso, ma di metterci alla fine dei premi veri, perché una delle cose fondamentali di queste gare dell'innovazione è che a volte alla fine il primo premio, lo diciamo spesso con Gianluca Dettori, è una stretta di mano, ti faccio fare un discorso. Una volta c'era una boccetta di aceto balsamico, i migliori ti portano a volte in Silicon Valley per 3 giorni. Non scherziamo, purtroppo. Allora qual è il punto? Noi vogliamo alla fine di questi 8 mesi di percorso di Stazione Futuro, mentre si svolge la gara in tutte le università e sul circuito di Working Capital, selezionare i migliori e alla fine qui, su questo palco, il 20 novembre, premiare le migliori start-up, ma premiarle davvero. C'è qualcuno che vincerà 1 milione di euro, qualcuno che vincerà 100.000 euro, tanti ragazzi che avranno una borsa di studio da 20 o da 30.000 euro. Questo vorrà dire che si chiuderà Stazione Futuro, questa esposizione che avete visto, e partiranno delle nuove imprese, partiranno dei nuovi progetti. È quello che cercavamo di fare con questo. Cioè, una mostra sul futuro non poteva non prevedere un'occasione di futuro a quelli che oggi ce l'hanno soltanto in testa. Diamo un futuro concreto, come dire. Grazie per questa puntualizzazione. E questo era Riccardo Luna, forse lo avete riconosciuto perché ormai è un personaggio pubblico che calca palcoscenici di vario genere, è anche un moderatore di dibattiti tecnologici, è una persona che viene ormai associata indubbiamente alla giovane imprenditoria italiana, grazie sicuramente a quello che combina Wired, che cerca di essere un po' il punto di riferimento, no? Che mette in contatto il grande pubblico con quello che succede in questo rutilante mondo imprenditoriale, ed era una registrazione molto molto recente, perché risale a ieri pomeriggio. A Torino si è concluso l'incontro inaugurale, diciamo di presentazione del Tour dei 1000, che è una di queste grandi iniziative che anche, diciamo, la grande industria supporta per cercare di sviluppare l'imprenditoria giovanile, tirar fuori l'idea che dovrebbe cambiare il mondo. Però fuori da ogni retorica, oggi cerchiamo di parlarne in modo più freddo e asciutto, anche se non è facile, con un personaggio come Fabio Lalli. Ciao Fabio. Ciao Antonio, ciao a tutti. Fabio Lalli, che penso abbia pieno titolo, diciamo, di rappresentare veramente un po' tutte le facce dei discorsi che faremo oggi, perché da un lato un giovane imprenditore, indubbiamente, estremamente dinamico, presente ovunque su questi scenari, anche un bravissimo sviluppatore, e attenzione, questo potrebbe essere fuorviante, perché non è detto che si debba essere anche sviluppatori per fare... Assolutamente. Esatto. Però, visto che ce l'abbiamo, è stato comodo, perché non ho dovuto invitare un imprenditore e uno sviluppatore, ed è anche uno dei principali animatori, no? di tutte queste occasioni, perché evidentemente siamo in una fase di transizione, le cose stanno cambiando e i ruoli non sono così definiti, bisogna semplicemente prendere in mano le leve di questo nuovo ecosistema e farlo funzionare. Sfrutto l'occasione per far gli auguri a Indigeni Digitali, ecco. Visto che oggi compie un anno in quanto fondatore degli Indigeni Digitali. Dimmi piuttosto che cos'è, perché anche io devo dire ancora faccio fatica a districarmi nel mondo di Indigeni Digitali. La prima cosa che ho notato è che il gruppo di Facebook, a differenza di tanti altri gruppi di Facebook che nascono e muoiono, improvvisamente si è popolato di una marea di persone che discutono delle idee più varie. C'è da dire che quando è nato Indigeni Digitali voleva essere un network molto più tecnico, proprio perché ci eravamo accorti, io e altri ragazzi tecnici ovviamente, della mancanza di un network tecnico che aggregasse più comunità verticali, il PHP User Group, il Ruby Club, il .NET Club e via dicendo. Quindi aveva un'impronta particolarmente tecnica. Poi col passare del tempo invece sono state coinvolte persone che non si occupano solo di tecnicismi, ma anche persone che si occupano di marketing o comunque a cavallo tra progetti web e comunicazione media. Ecco, se io vado sul sito di, anzi il blog di Indigeni Digitali, che sì, è blog.indigenidigitali.com, c'è il manifesto, sì, che naturalmente si chiama, è in versione beta, perché queste per cose... il concetto della perpetual beta. Perpetual beta, cioè è una cosa che non è mai destinata a consolidarsi e che cambia continuamente. L'indigeno digitale viene definito come colui che vive il digitale in tutti i suoi aspetti, crea le nuove applicazioni, testa e approfondisce le nuove tecnologie, ricerca continuamente nuove soluzioni tecniche, partecipa attivamente alla conversazione in rete, sperimenta e applica nuovi strumenti, aiuta chi manifesta interesse per la tecnologia, mette a disposizione degli altri indigeni il proprio know-how, le proprie capacità e il proprio network, è pronto al confronto e alla discussione. C'è stata un po' una piccola polemica su questa definizione con il professor Epifani, che salutiamo, che interviene spesso in radio, ciao Stefano, e che sul suo popolatissimo blog ha scritto: beh, io però non mi definirei un... cioè, non ha... allora, lui approva naturalmente e sostiene tutta la vostra iniziativa, però sul nome aveva qualcosa da ridire, lui non si definirebbe un indigeno digitale. Perché? E tu che cosa gli hai risposto? Allora, io ho fatto un'azione un po' particolare. Non ho risposto direttamente a lui, ma ho riproposto il suo blog e quindi il suo post all'interno del gruppo su Facebook per generare altra discussione e capire cosa diciamo ne pensano gli altri, che in qualche modo si sono invece identificati all'interno dei valori di Indigeni Digitali. A mio avviso, Stefano, correttamente, ovviamente ognuno ha il suo punto di vista, ha analizzato dal punto di vista semantico ha peccato di accademismo, potremmo dire. Forse sì, ha peccato di accademismo. Cioè, l'idea di indigeni non è una classificazione sociale ben precisa, definita dal termine, quanto un'aggregazione di alcuni valori e un concetto, quello dell'indigeno, che invece vuole in qualche modo tenere forte alcuni valori e trasmetterli agli altri. Poi le popolazioni indigene, giustamente come dice lui, in alcuni casi per barbari o altro sono state in qualche modo, diciamo, sì, diciamo, forse non ha condiviso la metafora, e su questo sono sì, abbastanza d'accordo anch'io. Dunque, io se vado sul vostro sito vedo che ci sono delle interviste a dei giovani sviluppatori, ci sono tutta una serie di iniziative, cioè soprattutto viene data notizia anche di tutti questi raduni, di tutti questi eventi che organizzate come Indigeni Digitali. Però se dovessi dirti qual è l'output, cioè qual è alla fine il prodotto di questa comunità? Un po' come il manifesto è in evoluzione. Quando siamo partiti l'idea iniziale era di creare network tra i programmatori. Il programmatore di solito, un po' per caratteristiche nerd dentro, non è un animale sociale. Non è un animale sociale, non comunica molto. Il fatto di trovare un format che aggregasse invece i programmatori e li mettesse in discussione uno di fronte all'altro è una cosa che sembra aver funzionato, perché li ha stanati un po'. Sì, questo si è visto molto all'evento Code Motion che c'è stato qui a Roma di recente, dove erano loro i primi ad essere sorpresi delle dinamiche positive che si potevano creare, anche perché poi la tecnologia con le nuove piattaforme, i mashup, le API che sono ormai tendenzialmente, almeno per una sorta di galateo, no? Nel mondo informatico devono essere esposti, devono essere aperti. Intanto, ecco, io ho inserito una parola che magari non tutti conoscono, l'ho anche pronunciato male, bisognerebbe dire API. Ecco, sì. Che cosa sono le API e perché sono così importanti nel vostro lavoro? Allora, innanzitutto cosa sono? È un modo di esporre alcune proprietà, servizi del proprio sito internet o comunque della propria applicazione, cioè permette ad altri sviluppatori di poter fruire di alcune informazioni in modo però canalizzato, cioè non è possibile utilizzare direttamente i dati, ma utilizzare alcuni servizi messi a disposizione dell'applicazione stessa. Quindi noi in sostanza quando vediamo un sito internet stiamo vedendo una rappresentazione dei dati, sì, che popolano il sito. Qualche giorno fa, anzi forse ormai qualche mesetto fa, è stato fatto un evento a Milano che si chiamava proprio Hack Italy, durante il quale un gruppo di programmatori, utilizzando API di servizi diversi, ha ricreato dei mashup o comunque delle interfacce nuove di applicazioni già esistenti. Quindi banalmente ha risviluppato un modo di rappresentarle. Beh, anche perché spesso è proprio la user interface a determinare il successo e il fallimento di un'applicazione. Assolutamente, no? Sì, assolutamente. Come ci insegna l'inventore del Post-it. Sì, assolutamente. Che all'inizio era un foglio A4, va bene. Per entrare un po' più nel clima di questi raduni, abbiamo detto il Code Motion, ma torniamo su Startup Weekend. Sentiamo qualche voce dall'edizione romana dello Startup Weekend dello scorso anno ormai. Sta per cominciare Startup Weekend, cosa succederà in questi tre giorni? Un raduno di innovatori, di qualcuno che ha un'idea da presentare per sviluppare un'azienda, un business o un qualche cosa di nuovo da creare. È importante che chi ha delle idee trovi comunque un ambiente fertile per discutere, svilupparle e portarle poi a compimento, che sarebbe il sogno, credo, di chiunque voglia fare. Io credo che in Italia e a Roma in particolare stia succedendo qualcosa, moltissimi giovani hanno voglia finalmente di intraprendere, costruire qualcosa, rischiare in proprio, e il modo migliore è quello di dimostrargli che esiste una comunità di colleghi, ma anche di investitori che sta lì aspettando le idee di questi giovani e che ha voglia di lavorare con loro. Negli Stati Uniti, negli ultimi 10 anni, quasi il 70% dei nuovi posti di lavoro sono stati creati da start-up. Basically what we do is that we gather entrepreneurs, they're always investors in our audience, and we have a big network all around the world, and we have lots of investors in the States that are interested in teams coming out of Startup Weekend. So basically a team that comes out of Startup Weekend can get nothing or can get up to $2 million. We had a team coming out of Denmark. They raised $2 million in funding, so it's totally up to the teams. If their idea is really interesting to investors, then they can get like a lot of amounts of money. Oggi diamo un po' più di spazio a questi suoni veramente assurdi dei Lullatone, questa band giapponese che si scrive Lullatone e non lo dico a caso come si scrive, perché hanno fatto una cosa molto bella, cioè da 3-4 giorni hanno deciso che tutti i proventi dei loro album saranno destinati naturalmente agli aiuti per il disastro che sta accadendo in Giappone, e questo li ha resi ancora più virali di quanto già non fossero in rete con questi suoni veramente fuori da qualsiasi schema con cui già da tempo qui a Conversational ci dilettiamo a condire i nostri inserti. L'ultima voce che abbiamo sentito era proprio questa di Tucker Gould, la ragazza, diciamo, di studi americani anglosassoni, chiaramente si intuiva, di Istanbul in realtà, che è una delle persone con cui parlando ti rendi veramente conto della dimensione mondiale del fenomeno di cui stiamo parlando qui adesso, non solo Startup Weekend, ma in generale del modo in cui si incontrano e si incrociano imprenditori e sviluppatori negli Stati Uniti. C'è questo dato veramente straordinario, cioè che se tu hai una buona idea, non dobbiamo sempre ragionare un po', lasciami dire, da pizzicaroli qui romani, che consideriamo un primo finanziamento di 100.000 euro, di 200.000 euro come la svolta, perché se tu hai un'idea che veramente dà la dimensione dell'opportunità di business che è in grado di creare, puoi andartene via come è accaduto con questa startup danese. In 4 giorni puoi uscire da uno startup weekend con un finanziamento di 2 milioni di dollari. Fabio, quando vedremo una cosa del genere in Italia? Perché prima abbiamo sentito, proprio nell'introduzione, no? Con una certa retorica, ma era anche giusto, data la circostanza, il tour dei mille, Riccardo Luna dire quest'anno facciamo le cose sul serio, e tutta la grande industria è in grado di produrre un premio complessivo alla fine di 2 milioni e mezzo di euro, che sono tanti, per carità, però insomma, commisurandolo al grande sforzo di marketing che compiono tutti insieme i partner, Wired, Telecom Italia, eccetera, non siamo ancora sulle grandi cifre americane. I soldi ancora in Italia non ci sono. Questa è la domanda. Che io sappia, no. Almeno non, cioè non è che non ci sono. Non hanno bussato da noi. Cioè, quindi in sostanza, chi ambisce a diventare ricco con l'idea che cambia il mondo, fondamentalmente vuole farsi notare dai venture capitalist americani, non da El Serino Piol, non da, che so, di Pixel, cioè non dai cosiddetti venture capitalist italiani. Si traguarda oltre l'oceano in ogni caso. Sì, diciamo che la tendenza oggi è quella di guardare oltre oceano, perché chiaramente i modelli che vediamo di successo stanno lì e non stanno qui da noi. Ci sono però dei casi di imprese che in qualche modo ce la stanno facendo anche in Italia con forze proprio o investitori non per forza di quelle dimensioni. È ovvio che per fare un salto veloce, soprattutto in un settore come internet, dove la velocità di crescita, esplosione e in alcuni casi anche di slump, di decrescita è abbastanza veloce. Quindi è ovvio che una cosa è prendere capitali, avere capitali di una certa entità che ti permettono di crescere molto più rapidamente di altri. È un'ambizione che... Allora te la metto subito molto piatta, Fabio, perché con te bisogna parlare chiaro. L'Italia, per qualcuno che ha veramente una buona idea, è un aiuto e un ostacolo, come... Parliamo di piattaforma Italia e non più di sistema paese. Cioè il fatto di provare a entrare in qualcuno di questi circuiti organizzati anche bene, devo dire, poi con manovre anche di marketing decisamente funzionanti, no? Come working capital, però insomma è qualcosa che al singolo imprenditore italiano è più una vetrina per mettersi in mostra o è veramente un'opportunità economica? Ma secondo me attualmente è più un modo per mettersi in mostra. Io vedo alcune realtà. Il che non è che vada male, per carità. No, assolutamente, anzi, cioè, secondo me questo è un segno di qualcosa che sta cambiando. Anzi, probabilmente questo è la punta dell'iceberg che sta man mano emergendo. Cioè, il fatto che adesso ci siano delle piazze dove mettersi in mostra probabilmente è molto meglio di prima che non c'erano. Io ricordo, a proposito, tu parli del fatto che prima non vi fossero, no? Infatti non c'erano, e i primi a cominciare a parlare ai giovani sviluppatori italiani di venture capitalism erano direttamente gli americani, con eventi come il Venture Camp, che erano organizzati direttamente dal governo americano, facendo leva sulle università, le sedi delle università americane in Italia. Ne ricordo uno di ormai 5-6 anni fa, la John Cabot University, forse c'eri anche tu, Fabio, in cui però, devo dire, i personaggi non mi sembravano, cioè, diciamo, chi avrebbe dichiarato di avere i soldi da investire nelle nostre straordinarie idee di latini creativi, eccetera, perché anche questo è un tormentone che ritorna, erano dei personaggi che sembravano voler porre dei vincoli abbastanza, lasciami dire, beceri, del tipo: io se vedo che voi non telefonate 20 volte e non vi se vedo che vi abbattete dopo 19 telefonate e non fate la 20ª, vi considero carta straccia e non finanzierò mai il vostro progetto. Oppure, se mi presentate il business plan in un formato Excel che io non sono capace di leggere, questo atteggiamento un po' bullish, lasciami dire, è più vecchio dell'atteggiamento che per esempio abbiamo sentito ieri a Torino dal palco del Tour dei Mille, dove forse per la disperazione generale che sta vivendo l'Italia come paese c'è anche una capacità di rimbalzare in qualche modo verso una innovazione finanziata in modo intelligente? Ma sicuramente l'approccio di quel tipo probabilmente è più old di quello che abbiamo visto ieri e sentito ieri a Torino. Forse anche quello che tu hai citato, John Cabot, era più un'azione di marketing per portare il loro modello fuori dagli Stati Uniti e quindi far in qualche modo abboccare qualche neoimprenditore. C'era un clima un po' da partnership for peace, no? Cioè, perché se tu guardavi i documenti era proprio un'iniziativa di matrice governativa americana. Va bene, torniamo alla giornata di ieri di Torino e sentiamo che cosa ci ha raccontato un imprenditore che le tappe indubbiamente le ha bruciate, perché è partito a metà degli anni 90, come Paolo Barberis, che rispondeva alle domande, pensa un po', di Nicola Greco, questo 16enne straordinario che ormai è diventato un po' anche la mascotte di tutti questi eventi. E un'ultima domanda: se fossi uno di noi startupisti alle prime anni imberbi, di cosa dovremmo avere paura? Senza metterci troppa paura. Esatto, no, perché effettivamente quando incominci a crescere non è che senti esattamente di essere aiutato da... Adesso non voglio dire una cosa troppo forte, però lo Stato non lo senti proprio un tuo alleato, diciamo, quando fai l'imprenditore, no? Questo... il tema della semplificazione, il tema del di aiutare comunque le imprese giovani, meno norme, comunque voglio dire anche un sistema un po' più chiaro, no? Di poterle interpretare aiuterebbe. Quindi diciamo, innanzitutto la complicazione è una paura molto grande, perché qualsiasi cosa diventa veramente molto, cioè qualsiasi adempimento, se sei piccolo, diventa molto, molto importante. Ma quello che non mi faceva dormire in particolare era il fatto che non funzionasse, evidentemente. Non so voi cosa sentite, insomma, il fatto che alla fine sì, la tua idea sia tua, la ami, ci metti dentro tutto, ma poi in realtà ti chiedi, servirà, ne avranno bisogno le persone, sarà adottata, quella è la paura. Quindi la paura di aver sbagliato la reason why del prodotto è quello che c'è dietro. La paura che non funzioni. Che non funzioni. Va bene, grazie. Grazie a voi, mille. Ragazzi. Nicola, quanti anni hai? Quasi 18, perché sono ottimista. Ragazzi, c'ho 17 anni. No, nel senso che è arrivato, tu non lo vedevi, è arrivato un messaggino di Twitter che in inglese, non so perché in inglese, non in italiano, perché lui era italiano, ti faceva i complimenti per la scioltezza con la quale stavi sul palco. Hai visto, dai, c'hai un doppio futuro davanti, puoi fare sia l'imprenditore che forse... che il conduttore. Speriamo bene. Grazie Paolo per essere stato grazie con noi. A voi. Bella abbronzatura, grazie. Devo dire. Si vede che è uscito da data, vero? Lavoro troppo. Sì. Va bene, grazie. Allora, ti lascio immaginare chi fosse l'autore di questo tweet. L'avevo mandato io e questa non voleva essere una citazione. Era un tweet in inglese in cui facevi i complimenti a Nicola Greco perché si era comportato molto bene, ormai ha una grande scioltezza, insomma, per uno di 17 anni. Però io l'ho scritto in inglese, scusa, capisco la battuta di Massarini che ha condotto con grande sapienza l'incontro di ieri, però l'ho scritto in inglese semplicemente perché era sul mio account di Twitter rivolto ai follower anglofoni, poi ho anche l'account in italiano, però lì semplicemente se scrivi italiano non ti capiscono e quindi ancora una volta è bellissima la retorica che festeggiamo i 150 anni eccetera, che dobbiamo tutti parlare italiano e va bene, però è anche opportuno che queste idee comincino a circolare in una lingua che viene capita, fuori, che forse dai. Non è più neanche tanto l'inglese, ma direttamente il mandarino, non lo so. No, allora, sul discorso sposo in pieno quello che stai dicendo, e tra l'altro sono stati toccati durante l'ultimo intervento che hai fatto sentire, tre punti importanti dei quali io ho parlato anche durante lo Startup Weekend di Torino. Innanzitutto questi nuovi imprenditori, cioè gli start-upper, devono approcciare il mercato non più con l'idea sto facendo un qualcosa che deve rimanere tra le quattro mura italiane, a meno che non si parla appunto di un business iperlocale, però con un approccio un po' più internazionale, cosa che sembra una banalità ma non lo è. Il secondo, rompere la barriera della preoccupazione del... come posso dire... c'è qualcuno che l'ha fatto, ci sono altre mille idee simili, ma innanzitutto crederci e poi cercare di portarla avanti con una certa determinazione. Questa cosa che dice è fondamentale, perché quando andavi l'anno scorso al Working Capital Tour, puntualmente, quando c'erano i pitch, le presentazioni di queste idee, la prima domanda che veniva dalla venture capitalist di turno, non me ne voglia Alessandro Santo, era quasi sempre lui, era: avete verificato se qualcuno ha già avuto questa idea a livello mondiale? Ed era subito lì pronto a citare, no? Perché poi si documentava, certo. Una persona, un grande professionista, era pronto a citare altri 3-4 servizi che gli sembravano simili, e siccome tipicamente in queste soluzioni globali c'è posto praticamente per uno, il solito discorso del tipping point, dell'asso piglia tutto, e poi non sapevano, esatto, loro non sapevano mai come rispondere. Quindi tu stai sfatando questo discorso, che tu puoi benissimo anche fare un'applicazione che è una via italiana allo stesso tipo di servizio, e comunque l'applicazione... Anche una via internazionale, però con un settore più piccolo. Cioè, quello che dico io è: il mondo è talmente tanto grande che è impossibile che un'applicazione prenda tutti e non lasci spazio per tirar fuori delle verticali o degli spazi aggiuntivi. Quindi non vedo perché dobbiamo in qualche modo, cioè, precluderci la possibilità di fare un'impresa o sviluppare un'idea solo perché c'è qualcun altro che è partito poco prima. È ovvio che se uno ha un'idea brillante e vuole metterla in pratica, se parte per primo è quello che verrà rincorso e non chi rincorre, però insomma, non perché c'è qualcuno bisogna buttarla nel secchio. Ecco. Io ho visto durante i vari Startup Weekend idee che sembrano simili ad altre che stanno già sul mercato, ma secondo me dovrebbero essere coltivate e portate avanti perché hanno un loro potenziale, hanno un modello che somiglia ad un'altra cosa, ma può essere in qualche modo sfaccettato. Ecco, a proposito di idee brillanti, io ricordo quando avevo tipo 24-25 anni, avevo appena finito l'università, cercavo di organizzare le partite di calcetto e non ci riuscivo mai perché arrivavo a... magari riuscivo ad avere 10 sì, no? In totale, però poi al momento della partita 2 o 3 non si presentavano al campo, e avevano anche ragione perché a quell'età molto spesso la sera hai cose più interessanti da fare che giocare a calcetto. E infatti mi diedi agli sport individuali, prima al tennis, che però comportava un avversario, e poi al golf, che aveva risolto il problema perché potevi anche giocare da solo e non dipendevi da nessun altro. Però c'è anche un'altra soluzione, c'è anche chi organizza le partite di calcetto per te, e lo sentiamo nel prossimo inserto. Calcetto, nato al Politecnico di Milano. Questa è proprio la distinta della partita, dove ciascuno appunta la propria figurina nella posizione in cui vuol giocare. Non hai capito che stasera io gioco su Fubless, che stasera io gioco su Fubless, e che ormai gioco solo su Fubless, hai capito? Allora, l'avrete capito, si chiama Fubless, questa web application, dove praticamente tu trovi la partita di calcetto già pronta, devi solo dire in che ruolo vuoi giocare, dai la disponibilità, ti reghi al campo e c'hai automaticamente 9 persone che magari non conosci, però conosci lì, quindi diventa anche una piattaforma sociale. Allora, questa è un'idea veramente, lasciami dire, semplice, no? O meglio, l'idea è brillante e l'applicazione che è straordinariamente semplice, perché questi signori non hanno fatto altro che creare una sorta di social network che organizza le partite. Ricorda molto Eventbrite come struttura, certo. No? Cioè, legato strettamente alla partita di calcetto. Ma secondo me i ragazzi di Fubless hanno azzeccato più fattori, non solo... non lo diciamo a caso, lo diciamo perché hanno preso un finanziamento di 300.000 euro tipo dopo un mese, cioè hanno subito Piol ha sganciato, sì. Perché gli sembrava, tra l'altro è anche un'idea facile da vendere, facile da spiegare, e questo è fondamentale, perché se uno va ai pitch certe volte si trova di fronte delle idee magari geniali ma non facilissime da spiegare, e loro hanno avuto un'idea semplice, tecnologicamente costo zero praticamente realizzarlo. Una volta sviluppata l'applicazione è facilmente scalabile, e se uno va a vedere nel mondo quante persone ormai organizza nel mondo partite di calcetto con questa applicazione, è impressionante. Assolutamente. No, dicevo, loro secondo me hanno azzeccato due fattori. Innanzitutto la semplicità dell'idea, ma di piattaforme come queste ne erano già esistite anche altri nel tempo, quanto il momento. cioè loro hanno in qualche modo portato sul mercato la piattaforma per organizzare appunto partite di calcetto, forse all'apice o comunque nel punto di maggior crescita delle piattaforme di social network. Di conseguenza gli utenti si sono trovati coinvolti per un modello che già utilizzano su altre applicazioni e soprattutto perché è utile e non presente sul mercato. Cioè, in sostanza, mi stai dicendo che forse la cosa importante è capire quali sono dei problemi assurdi che ci affliggono nella vita quotidiana per avere l'idea giusta. Per esempio, superare le code, e c'è quell'altra applicazione che Kurami. Si chiama Kurami, esatto, che è stato un altro grande successo emerso in uno di questi Startup Weekend. Praticamente un'applicazione che ti permette, quando devi fare una coda, che so, un ufficio postale dove c'è da controllare il numeretto e così via, automaticamente di fare il biglietto elettronico e di gestire tutta l'attesa, perché tu col telefonino sai esattamente quando sarà il tuo momento e quindi in quel tempo morto magari utilizzarlo per fare altre commissioni o altre cose. Guarda, no? Qui mi aggancio a un tweet che c'è stato oggi di Nicola Mattina, di un intervento fatto da Dettori, che diceva che un'idea si capisce in 30 secondi se è buona. E secondo me la dimostrazione di Kurami durante lo Startup Weekend è il contrario, cioè è arrivato terzo allo Startup Weekend, non ha vinto, non è arrivato tra i primi due, eppure tra le startup presentate a Roma è l'unica che sta in qualche modo facendo un percorso d'impresa diciamo strutturato e in crescita. E questo appunto diceva dimostrazione del fatto che innanzitutto, al di là del fatto che se non vinci il Working Capital, lo Startup Weekend, non vuol dire niente, l'idea non è da cestinare, no, soprattutto è appunto una vetrina. Hai un video su YouTube che ha già fatto automaticamente 5.000 scaricamenti solo perché è un pitch di una idea, certo, di una startup, no? Quindi e poi diventa una cosa che puoi portarti dietro, cioè praticamente tu hai creato intanto il materiale, il deliverable, il famoso deliverable da, cioè, replicare e portare su altri, da portare altrove, perché poi c'è quella vetrina e ce ne possono essere altre 10.000. Certo. Guarda, siamo verso la conclusione, quindi comincio a farti un po' una domanda riassuntiva. Vai. Di tutto questo mondo. Stati Uniti e Israele, no? In questo momento sono i paesi che guidano decisamente un po' tutto il discorso del venture capitalism, che in questo momento è probabilmente il modo in cui questo tipo di idee possono essere finanziate. Tu intravedi altri modi? Perché allora abbiamo scartato il modo in cui l'economia sostiene la grande industria. Sappiamo in particolare in Italia che disastri ha prodotto. Abbiamo fallito la scommessa industriale, stiamo fallendo anche il cosiddetto terziario avanzato, che sembra doverci proiettare negli anni 80. Ora c'è questa cosa del venture capitalism, che però è un modello replicato dagli Stati Uniti e noi lo stiamo facendo nostro in modo un po' così. Ma quando si parla, per esempio, di economia della conoscenza, di Wikinomics, questi discorsi qua ti esaltano o ti deprimono questi? No, a me argomenti come questi esaltano. Personalmente direi di stare attenti al discorso degli investitori e di tutto questo, diciamo, modello che si sta costruendo per due motivi. Uno, come ho scritto in un post qualche tempo fa, l'investitore, cioè il venture capitalist, non è amico dello startup, del neoimprenditore. No. Assolutamente. E neanche no. Il business angel. E neanche il business angel. Quindi le scelte che vengono fatte perché cercano in qualche modo di massimizzare il profitto. Quindi non lo fanno per curare o perché hanno a cuore la startup. Secondo, è una visione un po' più di mercato. Nel 2000 c'è stata una bolla di internet, era stato un passaggio abbastanza, secondo me, importante, perché un sito statico stava andando verso siti dinamici, qualsiasi cosa doveva andare su internet, crescere su internet, e bastava dire vado su internet e con titolo in borsa schizzava veramente del 200%, 300%. Banca Lombarda, Tiscali, ce ne stanno tantissime. Non so perché, ma io comincio a vedere delle analogie tra il 2000 e il 2010, cioè 10 anni dopo si sta ricominciando a riverificare quello stesso tipo di entusiasmo, probabilmente eccessivo, dato forse appunto dall'enfasi che viene data in alcuni casi forse anche da troppi soldi su delle startup che non li meriterebbero. Quindi direi di stare con i piedi per terra, cercare inizialmente di portare avanti, se possibile, la startup con dei costi contenuti, con un modello, insomma, organizzato bene, Poi nel momento in cui si sente realmente l'esigenza di affacciarsi al modello, diciamo, dell'investitore, muoversi però con un po' di piedi di piombo. Non mi getterei nelle braccia, ecco, di un investitore solo perché mi fa vedere il... Va bene, allora io ti ringrazio per il richiamo alla concretezza, per evitare l'accusa di fuffologia che è sempre aleggia sulle nostre teste. E vorrei citare il tuo personale sito, poi ci saranno tutti i link agli Startup Weekend, cioè nella... Assolutamente, esatto. Nel mio blog si trovano, c'è il live blogging dei vari eventi. Com'è l'indirizzo? Fabiolalli.com, il mio blog, lì sopra si trova tutto quanto. D'accordo, e vi ricordo ancora una volta che invece le registrazioni di tutte le puntate anche precedenti di Conversational le trovate all'indirizzo www.conversational.it. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana.